Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 24 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la città. Do il buongiorno anche alla mia collega, sempre con me, Antonella Cortese. Buongiorno Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore, canale 636 e Lepida TV, canale 118. Allora, oggi apriamo i nostri editoriali, la nostra cronaca sociale, parlando di vaccinazioni, perché finalmente sono arrivate, quindi leggo vaccinazione, carceri, Lombardia, Lazio e Marche in pole position. Leggo su News Online a cura di Raul Leoni. Perché sta procedendo a pieno ritmo la campagna vaccinale negli istituti penitenziari, per fortuna anche. Sono già quasi 20.000 le dosi somministrate fino ad oggi e che risultano all'anagrafe nazionale dei vaccini presso il Ministero della Salute, un dato che sta coprendo il 36% della popolazione reclusa. Ed è la Lombardia a guidare la classifica delle vaccinazioni alla popolazione detenuta con quasi 6.000 somministrazioni di vaccini anti-Covid a fronte di quasi 7.800 detenuti presenti. A seguire la Regione Lazio con quasi 4.000 somministrazioni su quasi 6.000 reclusi, quindi siamo a buon punto. Caterina, è vero, siamo a buon punto, ma come sta andando avanti nelle altre regioni italiane? Sì, si aggiungono alte percentuali di vaccini anche registrate nelle regioni Marche e Abruzzo, che contano rispettivamente 643 somministrazioni su una popolazione detenuta quasi di 1.000 unità e in entrambe le regioni. A buon punto anche la classifica e il piano vaccinale condotto nell'istituto di Calabria e anche Puglia, a seguire seguono il Trentino Alto Adige, la Basilicata, la Valle d'Aosta, l'Emilia Romagna e il Molise fino ad arrivare alla Campania. E senti, in fondo alla classifica resta la Sardegna? Sì, ed è un dato strano perché la Sardegna, ci ricordiamo, qualche tempo fa era la regione l'unica bianca, ti ricordi Antonella, nel panorama delle regioni italiane a marzo. Era l'unica regione rimasta bianca, quindi con pochi casi, insomma, e una forte campagna già di prevenzione. Però adesso ha il dato più basso, con 49 somministrazioni soltanto su una popolazione detenuta di quasi 2.000 unità detenute. Ma per fortuna, come ha assicurato l'assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione Mario Nieddu, le dosi di vaccino sono ormai in arrivo e disponibili e quindi la campagna vaccinale nelle carceri subirà un'impennata nelle prossime settimane, con i prossimi giorni. Senti, oltre alle persone ristrette che sono state vaccinate, il personale, mi riferisco agli agenti, ai direttori, insomma tutti quelli che gravitano intorno al carcere, come procedono i vaccini con loro? Giustamente, infatti, secondo i dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria DAP, con cadenza settimanale, quindi i dati sono aggiornati, anche il piano delle vaccinazioni dirette al personale di polizia penitenziaria e al comparto funzioni centrali è in fase molto avanzata. Sono state vaccinate quasi il 50% delle persone che vi lavorano e quindi siamo a buon punto. A questo aggiungo una nota del garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli, che è stato presente, appunto ha partecipato alla commissione per la parità e per i diritti delle persone, che ha fatto un bilancio delle condizioni delle carceri dell'Emilia Romagna. Ha ricordato il tema della sovraffollamento, che è ancora molto compresso e che purtroppo ha subito un'impennata, perché se nel 2020 vi erano state in qualche modo una diminuzione delle persone all'interno degli istituti penitenziari, adesso stanno aumentando e quindi questo non garantisce il distanziamento sociale, che comunque è necessario per far sì che il Covid non si diffonda. E poi ha ricordato la situazione delle madri con figli all'interno delle carceri, che anche questa è molto grave, si deve fare in modo che venga superata in qualche modo e che le madri con figli vengano affidate negli istituti appositi, negli cosiddetti ICAM. E poi ha ricordato, per l'appunto, questo ci fa molto piacere, che è già terminato almeno la prima dose a Piacenza, a Ferrara, ed è in fase di completamento nelle altre province, anche a Reggio Emilia, dove si contano purtroppo ancora 62 persone positive. Ma ora è il momento di lanciare il brano musicale e anzi la compilation della settimana. A cura di questa settimana affrontiamo Jim Morrison, anche lui, siccome un po' la caratteristica di queste musiche che lanciamo sono, almeno che lancio io, sono a cura di cantanti che sono stati, hanno toccato anche il carcere, che però sono andati avanti, hanno fatto strada, sono diventati famosi. Lui è Jim Morrison, la star dei Doors, e star rock per l'appunto, e ascoltiamo il brano The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Of some stranger's hand in a desperate land. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Stiamo ora affrontando la nostra finestra sul mondo, che è sempre a cura di Antonella. Oggi Antonella, dove ci porti? Oggi vi porto in Malawi, che è uno stato dell'Africa subsahariana, ma vi ci porto per un motivo molto importante, perché il Malawi ha abolito la pena di morte, dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema. E questa è una cosa veramente molto importante, perché dopo l'Europa è il continente africano che si sta schierando con maggiore convinzione contro la pena di morte. E la Corte Suprema del Malawi, che è il paese che si estende intorno al lago Malawi, che è il terzo lago più grande dell'Africa, tra l'altro, tra Mozambico, Tanzania e Zambia, ha stabilito a fine aprile che la pena di morte è incostituzionale. E segue un po' la scia del Chad e diventa il 22esimo paese subsahariano ad abolire la pena di morte, appunto, dichiarando fuori legge praticamente questa procedura in quanto nega il diritto alla vita. La Corte Suprema ha ordinato anche l'annullamento della condanna della pena capitale per almeno 37 detenuti, ai quali sarà garantita ovviamente una riformulazione della sentenza. E da oggi, infatti, la massima punizione in Malawi sarà l'ergastolo. È una notizia importantissima che quindi ci riguarda e riguarda anche la società civile. Quindi io ti chiedo come ha reagito la popolazione. Allora, guarda, il fronte dei malawiani che hanno espresso soddisfazione per la sentenza è compatto, mentre si opponeva a questo provvedimento chi temeva che potesse venir meno un deterrente alla criminalità. Le esecuzioni di Stato in effetti non avvengono nel paese da quasi 30 anni, c'è da dire. Inoltre venivano comminate soprattutto ai meno abbienti che non potevano pagarsi l'assistenza legale per difendersi, quindi un'ulteriore ingiustizia. Stando al report di Amnesty International, l'organizzazione che si batte per la difesa dei diritti umani, le ultime esecuzioni che sono state eseguite in Malawi risalgono al 1992 e non è casuale il fatto, proprio perché è solo nel 1994 che il Malawi ha eletto il suo primo presidente scelto democraticamente, da quando poi fu dichiarata l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1964. E infatti fu proprio il presidente Bakili Mulutsi a decidere all'inizio degli anni 90 di non applicare più la pena capitale e di commutare la sentenza di 120 condannati a morte in ergastoli. E allora facendo un po' una disamina dei paesi africani, quanti sono ancora gli stati che prevedono la pena di morte in Africa? Oggi più di 30 paesi africani prevedono ancora la pena di morte, Caterina, e anche se secondo Amnesty negli ultimi anni meno della metà ha eseguito effettivamente la condanna a morte. Notizie opposte giungono invece dall'Egitto, dove solo il 26 aprile 2021 sono stati giustiziati 9 detenuti, tra cui anche un uomo di 82 anni, condannato per la morte di 13 agenti di polizia in un attacco a Kerdasa nell'agosto del 2013. Dopo un processo che Amnesty International ha giudicato gravemente iniquo, in cui è stato negato l'accesso agli avvocati. Ovviamente il nostro auspicio è che la pena di morte venga cancellata in tutti i paesi del mondo. Tocca a te adesso lanciare un brano musicale prima del nostro nuovo ospite della settimana. Esattamente, questa settimana ci accompagnerà Mario Biondi, che è un artista internazionale dalla voce inconfondibile, un vero e proprio soul man, che ha calcato i palcoscenici più famosi del mondo e ha partecipato anche al Festival di Sanremo, per dire. L'intervista integrale la potrete ascoltare giovedì 27 maggio e dal suo album There, ecco uno spiritual che ha il sapore di speranza e di augurio. Infatti il titolo del brano è Someday We'll All Be Free, che significa semplicemente un giorno saremo tutti liberi. Mario Biondi with Fabrizio Bosso Spiritual Trio. You down. Things are moving fast. Hold on tight, and you will last. Keep your self-respect, your manly pride. Get yourself. Keep you strong. Never mind your fears. Brighter days will soon be here. Take it from me. Someday we'll all be free. Yeah. Just wait and see. Someday we'll all be free. Bentornati su Liberi Dentro Eduradio, siamo sempre con la nostra Natalia Veleva, mediatrice culturale al carcere bolognese della Dozza e in particolare per le lingue rumena, russa e bulgara. Complimenti. Grazie. Natalia, la scorsa volta abbiamo fatto un'intervista a tema culturale, socioculturale e anche questa volta approfondiamo questo aspetto sempre sulla cultura rumena e per l'appunto moldava anche. E abbiamo parlato la settimana scorsa di Mihai Eminescu, abbiamo accennato anche al concetto di Dor, che è quasi intraducibile in italiano. Tu mi hai accennato che accenna un sentimento di nostalgia, però in italiano non riusciamo a trovare una parola adatta, e allora io ti chiedo di spiegarcene pienamente il significato. Certo, cioè, anzi, il dor è una parola proprio intraducibile, perché si riferisce cioè, a un spettro molto ampio di sensazioni, sentimenti provati in quel momento, oppure anche addirittura che pensa la persona di provarle nel futuro. perché cioè, questa parola si può tradurre come separazione, nostalgia, ideale, dolore, dono, amore, illusione, tormento, malattia, desiderio, proprio cioè, vera tristezza, dolore fisico, dolore dell'anima, proprio una cosa molto molto ben complessa. E la sensazione che ne deriva, che nasce dal senso di mancanza, una sofferenza provocata da una separazione che sconfina nel desiderio di rivivere una passata emozione perduta, proprio... Cioè, è una cosa molto, molto, molto piena di vari tipi di sentimenti, emozioni. Il dor si propaga, possiamo dire, in tutte le dimensioni reali e temporali. È presente nella letteratura rumena, sia quella popolare, folcloristica, ma anche quella proprio letteraria, iniziando dalla transumanza dei pastori che cantano la loro terra, che anche questo è il dor, cioè il dor della propria patria, cioè andando proprio alla nostalgia per la persona amata, perduta, che sia questa madre, padre oppure anche partner, ecco. E il dor è un concetto tipico di tantissime canzoni popolari, cioè folcloriche. Esatto, e allora collegandoci proprio a questo, alle canzoni popolari folcloriche c'è la doina per l'appunto, questa creazione lirica specifica del popolo rumeno. Ti chiedo di raccontarci come nasce, quali sono le sue origini e se è rimasto ancora questo genere nella letteratura rumeno-moldava, se viene ancora tramandata anche di padre in figlio. Ok, allora sì, anzi direi che addirittura doina, dor e anche colind, che sarebbe un canto cerimoniale rumeno, moldavo, caratterizzato da vari elementi rituali, di solito eseguito durante i solstizio invernali, proprio potrei paragonarlo con il canto natalizio italiano, sono stati dichiarati parte del patrimonio culturale dell'UNESCO, proprio dalla cultura rumena. Doina invece è una canzone lirica, solenne, di natura improvvisata, ovviamente, sempre con un autore anonimo, oppure addirittura collettivo, perché può darsi che sia stata composta da una persona, sentita da un'altra, quell'altra persona abbia aggiunto altre cose, e così si è tramandata da padre a figlio, da madre a figlia anche, durante varie generazioni. E una canzone che parla anch'essa della gioia, della tristezza, nostalgia, amore, solitudine, guerra, del passare del tempo, dell'invecchiamento, e ovviamente in tutto ciò c'è sempre il concetto d'or. Questa si proviene dal folklore, cioè si trasmette oralmente da padre a figlio, e il fatto sta che questa canzone, infatti la chiamiamo canzone, va sempre, sempre, sempre accompagnata dalla musica, cioè non può essere recitata, deve essere assolutamente cantata, essendo accompagnata con uno strumento musicale oppure no, non importa, ma comunque va sempre cantata. E essendo l'essenza del folklore rumeno fino al XX secolo, diciamo così, addirittura era l'unico genere musicale in moltissime regioni del paese, cioè trattando attuali paesi della Romania e della Moldavia. Ma purtroppo oggi la doina è un po' minacciata a livello locale, purtroppo, perché proprio mi è avvenuta l'interruzione della linea di trasmissione da genitore a figlio. E grazie per questo tuffo nella storia della doina. E che canzone lanciamo a metà della nostra chiacchierata? Allora, io vorrei lanciare adesso una doina strumentale, proprio per far sentire al pubblico e ricordare anche alle persone che stanno all'interno della doccia e le proprie origini, una doina strumentale che si chiama Doine Doine Cântec Dulce, cioè Doina Doina Canzone Dolce, di Dumitru Blajinu. Thank you. E rieccoci, bentornati su Liberi Denti, siamo sempre con Natalia che ci sta raccontando il sentimento d'or e la storia della Doina, questa ballata folcloristica popolare. E diciamo Natalia che forse è il poeta che ha fatto più raccolta, ecco, in assoluto di doine e di ballate, è questo Vasile Alexandri, poeta, scrittore, molto noto nell'epoca post-romantica. E ti chiedo se ce lo presenti un attimo e magari se ci fai una citazione di una delle sue opere più famose. Certo. Allora sì, Vasile Alexandri è un poeta, scrittore, politico rumeno, addirittura noto anche in Italia perché a Torino c'è una via intitolata a suo nome, ecco, in quanto ha avuto varie attività diplomatiche con il Piemonte. E lui è stato un appassionato collezionista di opere folcloristiche, infatti a metà degli anni dell'Ottocento, degli anni 40 o 60 dell'Ottocento, ha raccolto tantissimo materiale folcloristico. Ovviamente non fu soltanto lui che ha fatto questa cosa, ma lui proprio è il maggiore. Ha editato successivamente ben 4 volumi di tantissime opere folcloristiche da tutto il territorio rumeno e moldavo. La sua opera raccolta dal popolo più nota è ovviamente la Miorița, cioè l'Agnelina. Questo è un canto tradizionale rumeno, ovviamente una doina, anche essa una ballata. E il motivo mioritico ha rappresentato una fonte di ispirazione per tantissimi scrittori, compositori, artisti, non soltanto rumeni ma anche stranieri. Ve la cito giusto due versi. Pim picior de plai, piogure de rai, iate vin in cale, secobor la vale, tre turme de miei, cu trei ciobanei, uno in moldovan, uno in gurian, și uno in vrincian. In italiano sarebbe per alpestre declivo, verde soglia dell'iso, ecco che vengono, a valle scendono, tre greggi d'agnelli con le tre con i tre pastorelli, uno è moldavo, uno è transilvano e l'altro è vrinciano. In questa ballata ovviamente si parla di questi tre pastori che alla fine, sempre come in qualsiasi ballata, doina, ma non soltanto rumena, ma di qualsiasi altro popolo, andiamo a toccare anche la mamma, la persona più cara a noi. E perciò vorrei lanciare un brano musicale di un cantante di doine, Nicolae Sulac, e la canzone si chiama Et spun mama dorule, che la traduzione sarebbe tipo o madre ti dico d'or, oppure mi manchi madre, oppure non saprei come tradurla per bene, ecco. Grazie, grazie Natalia, e questa canzone la dedichiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando sia dalla città che dalla Dozza, e in particolare a una persona che ci ha scritto dalla Dozza, di origine moldava, rumena, e che fa opere artistiche a mano, le costruisce lui, delle villette, delle casette, e chissà, magari ci darà l'occasione di parlare anche di opere artistiche la prossima volta. Știi, măicuță-i vina ta, m-ai învățat a cânta, măi. Știi, măicuță-i vina ta, m-ai învățat a cânta, măi. M-ai făcuță cânt cu drag, să fiu mândrelor pe plac, măi. M-ai făcuță drag, să fiu mândrelor pe plac, mă. Că-ți spun, mamă, dorurile, noi trăim ca păsările. Că-ți spun, mamă, dorurile, noi trăim ca păsările. Ele cântă în codru de toată lumea veseles, mă. Ele cântă-n codru des, toată lumea vesele smă. Cresc în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul lor, mă. Cresc în cuiburi puișori, le dau apă-n ciocul. Ben ritrovati e proseguiamo la nostra mattinata, mi raccomando sempre, ve lo ricordiamo, con le rubriche Oggi parliamo di, e questa volta avremo AVOC, il Centro Internazionale del Libro Parlato, Voci da Dentro. Scriveteci, mi raccomando, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Grazie a Pasquale Pitagnello, sempre in regia con noi al montaggio delle nostre puntate, e alla mia collega Antonella Cortese, e in particolare a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite sempre su Liberi Dentro. A domani e buona giornata a tutti. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.